Siamo in collegamento con Gabriele Vilardi, social media manager per la comunicazione di Riace. Ciao intanto Gabriele. Ciao, ciao. Siamo in collegamento per parlare un po' di quale sia la situazione a Riace e poi appunto anche della comunicazione. Però per prima cosa ti chiederei appunto di raccontarci un po' qual è la situazione che si vive adesso. Niente, la situazione è abbastanza complessa, nel senso che ovviamente il divieto di dimora che è stato imposto a Domenico Lucano e viene sentito tantissimo nella città di Riace, soprattutto per il borgo, che poi alla fine è il luogo all'interno del quale si vive di più l'esperienza del modello Riace. Ovviamente le difficoltà sono soprattutto anche di natura economica, dal momento che i fondi che dovevano essere percepiti dal comune, che sono pari a 2 milioni di euro nell'arco di 2 anni, non sono stati mai stanziati, anzi c'è il rischio che possano essere richiesti, quindi c'è anche questa problematica che potrebbe ripresentarsi, visto e dato che il Ministero degli Interni ha bloccato e non ha riconosciuto, diciamo, per il nuovo semestre lo SPRAR di Riace, che anzi è stato chiuso. Quindi di conseguenza abbiamo delle difficoltà di natura economica e ovviamente questo va a colpire quell'economia interna che si è andata a sviluppare, come anche le botteghe artigianali, i mediatori culturali, i quali ovviamente si trovano in difficoltà, e di conseguenza questa diventa una sorta di lenta agonia che sta subendo Riace, ma che soprattutto stanno subendo le persone che vivono la città. Ovviamente stiamo cercando di aiutare sia Mimmo Lucano, che è costretto a non vivere la sua comunità da esiliato, ma al tempo stesso anche i cittadini presenti all'interno del borgo, e quindi stiamo cercando di organizzare una serie di appuntamenti e di iniziative che possono in qualche modo compensare un'assenza dello Stato italiano, dal momento che, diciamo, lo SPRAR comunque aveva un ruolo preminente all'interno del contesto dell'accoglienza. Diciamo che la prima cosa che è avvenuta è stata l'avvio di una richiesta a una serie di persone. Siamo arrivati circa a 60.000 firme per quanto riguarda il riconoscimento di Riace come patrimonio immateriale dell'umanità. Questa campagna ha permesso poi la nascita di una prima pagina, che è Riace patrimonio dell'umanità, dalla quale gestisco la comunicazione, che ha raggiunto circa 25.000 persone, così come anche il profilo Twitter. Diciamo che attraverso questa campagna, che comunque è nata nel momento in cui non c'erano queste problematiche, che non avevano ancora colpito né Riace né il sindaco Lucano, abbiamo iniziato a far interessare ulteriormente le persone che magari non conoscevano effettivamente Riace, la storia del modello, e quindi siamo partiti con una campagna che non si è ancora fermata, perché ovviamente affinché si possa avere questo riconoscimento ufficiale dall'UNESCO bisogna avere anche un sostegno da parte dell'ente ufficiale, che è la Regione Calabria, e quindi stiamo facendo tutti i passi necessari affinché effettivamente venga formalizzata sia la proposta e quindi anche la speranza che venga riconosciuta Riace come patrimonio dell'umanità. Questa è la prima azione. La seconda azione è nata nel momento in cui sono stati bloccati i fondi da parte del Ministero degli Interni. Abbiamo avviato attraverso RECOSO, la rete dei comuni solidali, una raccolta fondi. Questa raccolta fondi che l'abbiamo indirizzata essenzialmente come una raccolta popolare di solidarietà internazionale, dal momento che comunque Riace è conosciuta a livello europeo e non solo come esperienza di buon governo e come modello, ma soprattutto narrazione diversa a quella che oggi viviamo con il governo giallo-verde Salvini Di Maio. Abbiamo attuato questa raccolta fondi, ad oggi siamo arrivati a circa 320.000 euro e l'abbiamo ripresa soprattutto adesso che ci sono state, diciamo, queste vicissitudini molto terribili che hanno colpito Mimmo Lucano. Quindi la raccolta fondi continua, dopodiché si sono fatte una serie di appuntamenti, una serie di iniziative che un po' alla volta cercano in qualche modo di non spegnere quell'occhio di bue che si è acceso incredibilmente a Riace nel momento in cui c'è stata la notizia dell'arresto, che poi non è stato arresto, perché Mimmo non è stato arrestato, ma semplicemente gli erano stati fatti dei capi di imputazione. Dopodiché poi quello che erano gli arresti domiciliari si sono trasformati come divieto di dimora, quindi di conseguenza lui deve essere ancora giudicato e quindi non c'è nulla di definitivo. Queste iniziative sono: la prima, abbiamo richiesto e stiamo richiedendo a tutti gli 8.000 comuni italiani di riconoscere Mimmo Lucano cittadino onorario delle proprie città. Per fare questo abbiamo realizzato un format di modello che sia singoli consiglieri comunali, sia forze politiche, amministrazioni oppure associazioni possono proporre e presentare, e ad oggi abbiamo all'incirca quelle che noi conosciamo, perché ovviamente stiamo ancora ricevendo le varie mail, almeno 30 proposte ufficiali di rispettivi consigli comunali di varie città e 3 conferimenti confermati delle cittadinanze onorarie. Quindi questo è stato comunque uno strumento attraverso cui si vuole in qualche modo porre la questione non solamente della dinamica di Riace, quindi di quello che è successo a Mimmo Lucano, ma anche dell'importanza e del ruolo degli sfollati che hanno in Italia, cosa che ovviamente, se noi andiamo a leggere il decreto sicurezza, io lo chiamerei più insicurezza di Salvini, è totalmente l'opposto, visto che si va a sviluppare una lenta agonia che porta alla chiusura totale degli SPRAR e di spostare invece le persone anche con fragilità all'interno dei CAS. Altre due iniziative che si stanno avviando in questo periodo sono una molto interessante, partita totalmente dal basso, chiamata Matite per Riace. In pratica è stata fatta una sorta di call, una chiamata alle arti per artisti e fumettisti, dove si chiedeva di poter rappresentare Riace come meglio pensavano, come meglio lo immaginavano, per poter generare una mostra, il luogo ancora da definire, poter mettere all'asta questi disegni. Ovviamente tutti i soldi che vengono raccolti vengono poi trasferiti nel conto IBAN che è stato affidato da parte di Recosol per sostenere Riace. Al momento so che sono arrivati 150 disegni, la mostra, la raccolta delle tavole sarà fino al 18 novembre e quindi di conseguenza ci aspettiamo tante altre opere. Altra questione che stiamo cercando di realizzare si chiama Poesia che accolgono, solidarietà a Riace. Anche questo è avvenuto molto dal basso ed è una cosa estremamente importante perché dimostra da una parte che le persone stanno non solo seguendo e credendo, diciamo, nella dinamica di Riace, ma vogliono in qualche modo dare una mano concretamente. Quindi una serie di persone che sono all'incirca una decina dei promotori, sparsi un po' in tutta Europa, ci hanno contattato e hanno chiesto di poter organizzare una forma di flash mob poetico da organizzare il 4 novembre alle ore 16 in forma internazionale. Inizialmente avevamo scritto in tutta Italia, poi abbiamo visto che in realtà si erano unite città come Barcellona, Parigi, Madrid e quindi ci sembrava abbastanza riduttivo scrivere Italia, e quindi un flash mob internazionale il quale ha avuto il beneplacito e il sostegno da parte di Henry De Luca ufficialmente, tanto che questo flash mob partirà con la preghiera laica di Henry De Luca e poi una serie di componimenti poetici a scelta da parte degli organizzatori delle rispettive città. Diciamo, questi appuntamenti non solo servono a livello economico nel poter sostenere la comunità di Riace, ma al tempo stesso provare quantomeno a informare le persone e a sensibilizzarle. Poi ci sono una serie di appuntamenti che nascono, io dico felicemente, come funghi, tra presentazioni di documentari vecchi oppure gli ultimi, presentazioni di libri, ad esempio l'ultimo di Tiziana Barillà, Mimica Patosta, una serie di appuntamenti che vengono comunque promossi. L'ultimo che mi sta venendo in mente adesso è il 4 novembre, una giornata di trekking a Putignano, dove le persone si uniscono, fanno questa passeggiata all'interno della natura e parlano di Riace, cioè una cosa meravigliosa, perché ovviamente fa capire che da una parte non c'è nessuna forma di centralizzazione di organizzazione, cioè io ad esempio come altre persone stiamo dando una mano affinché si possa in qualche modo creare una sorta di connettore di informazioni, notizie per mantenere, diciamo, alta l'attenzione, però dimostra che ci sono tantissime persone, tantissime anime che comunque si stanno mobilitando indipendentemente se qualcuno glielo chiede, cioè lo fanno solamente perché è importante farlo adesso, e questo dovrebbe dimostrare il ruolo politico e simbolico che ha Riace oggi, così come l'esperienza di Lodi, così come l'esperienza di Don Biancarani a Pistoia, dimostra come di fatto c'è una base, ci sono delle persone che non accettano la narrazione di Salvini, non accettano la narrazione quella securitaria, non accettano la narrazione che l'immigrazione è uguale a clandestinità, è uguale a malattie, è uguale a ruberie, è uguale a morte, desolazione, ma è tutt'altro. È melting pot, è pluralismo, è presenza di più esperienze, di connessioni culturali e sentimentali, e questo è bello e bene o male stiamo cercando in qualche modo di raccontarlo. Ecco, questa è la funzione che bene o male provo ad effettuare, cercare di raccontare ogni giorno quello che effettivamente avviene, non solamente a Mimmo Lucano, che comunque rilascia interviste e racconta attraverso la sua voce quella che Riace, ma anche attraverso le tantissime voci di altre persone che comunque si stanno impegnando tuttora per la comunità riacese. E a proposito appunto di queste voci, c'è anche il progetto che poi presenteremo fra poco con Federica Manzitti, che è Radio Riace International. Sì. E io a questo punto ti ringrazio e ti saluto, perché è davvero esperto di comunicazione, in 10 minuti sei riuscito a fare un quadro perfetto, diciamo, hai fatto tutto tu e va benissimo così. Ottimo. Grazie mille davvero a voi, grazie.